Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore Online. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri, ma se andate su un qualunque motore di ricerca digitate il mio cognome Galullo blog e avrete accesso al blog, appunto, in cui tratto di diritti violati, di criminalità organizzata, insomma le mie passioni, al Sole come inviato e qui in radio come autore e conduttore. Allora, abbiamo ricevuto nei giorni scorsi alcune sollecitazioni di radioascoltatori, ma devo dire anche di amministratori locali, ad interessarci della legge 328 del 2000. A molti di voi non dirà nulla, a molti di voi probabilmente dirà qualcosa. Questa legge è la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. È una delle tante leggi quadro che hanno interessato l'Italia negli ultimi anni. In realtà siamo un popolo al quale piace moltissimo legiferare. Si legifera talmente tanto che alla fine si impastrocchia tutto ed è difficile uscire dai vincoli normativi. Allora, mettiamo oggi sotto la lente in particolar modo il comma 4 dell'articolo 6. Questo articolo si parla dell'assetto istituzionale dell'organizzazione del sistema integrato, appunto, di interventi e servizi sociali. E cosa dice questo comma 4? Dice: per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica. Detta così ci si capisce ben poco, e spesso il Parlamento italiano legifera proprio in maniera tale che non si capisca assolutamente nulla di quello che c'è scritto. Ma in soldoni, quello che ci ha spinto a occuparci di questa legge è capire se ai familiari delle persone, in particolar modo gli anziani, gli ultra 65enni, che vengono ricoverati presso queste strutture che li ospitano, il comune possa o meno chiedere un'integrazione economica. Quindi, la domanda alla quale cercheremo di dare oggi e in altre puntate che manderò in onda nei prossimi giorni è questa: ma i familiari debbono pagare per gli anziani che ricoverano nelle strutture residenziali? Devono integrare la retta oppure no? Ecco, detta così, capirete che interessa migliaia, centinaia di migliaia di persone. Poi dei servizi sociali e del welfare per anziani, oramai c'è chi fa un vero e proprio business. Per cominciare a parlarne, io ho chiamato innanzitutto due ospiti. Il primo è Gianfranco Mannini, che è l'esperto dell'Associazione dei Diritti Utenti e Consumatori, l'ADUC. Benvenuto Mannini. Buona giornata a voi e agli ascoltatori. E Samuele Animali, che è il difensore civico della Regione Marche. Benvenuto Animali. Buongiorno, grazie. Allora Mannini, partiamo da lei. Mi dica in cosa ho sbagliato e invece in cosa ho detto bene, anticipando questa discussione. Prego Mannini. Dicendo che la normativa italiana è molto parigionosa si dice poco. Infatti la materia è regolata da una serie di disposizioni a partire dalla legge che dispone che i costi dei ricoveri delle RSA di anziani e disabili, di persone malate gravemente, bisogna premettere questo, stiamo parlando delle malati gravi gravi, cioè quelli che se lasciati soli muoiono letteralmente. Proprio non autosufficienti, sono cioè quelli più malati di tutti, diciamo. Esatto. È già uno scandalo che comunque vengono chiamati, sono gli unici malati che vengono chiamati a compartecipare alla spesa, ma appunto questa spesa è cioè la compartecipazione è destinata solo alla persona ricoverata. Cominciamo a fare chiarezza, Mannini. Allora la legge dispone che cosa? Il 50% di questi costi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, cioè lo Stato. Benissimo. L'altro 50% a carico del comune, il quale può chiedere una compartecipazione all'utente in base, in proporzione al valore del suo ISEE. Ecco, l'ISEE, diciamolo per, ecco, che cos'è l'ISEE? Ecometro o poerom, cioè la fotografia esatta della condizione economica di una persona. Benissimo, quindi io la interrompo un attimo per fare un secondo il punto. Vuol dire che se io ricovero una persona gravemente malata che è un mio familiare, può essere il nonnino, può essere la zia, può essere chiunque altro, lo ricovero in una di queste strutture, il 50% ce lo mette lo Stato, il 50% ce lo mette il Comune, che può o deve, intanto le chiedo, chiedere al ricoverato una compartecipazione? Può, nel senso, se questo ha una condizione economica, che può compartecipare, quindi in maniera proporzionale. Quindi se ad esempio una persona non ha redditi, è ovvio che non può compartecipare, non compartecipa nessuno, paga tutto il Comune. Benissimo, allora questa è già una cosa molto importante, è già una distinzione, non è un obbligo da parte del Comune richiedere, ma è una possibilità, una facoltà. È chiaro che se si presenta una persona totalmente priva di reddito, è compito del Comune integrare la retta stessa. Dico bene, Mannini? Perfetto. Benissimo, benissimo. Allora, io direi di fermarmi un secondo qui, di fermarci un secondo qui su questo punto, sentire che cosa ci dice Samuele Animali. Perché abbiamo chiamato Animali? Perché ha a lungo studiato l'argomento e come difensore civico della Regione Marche verosimilmente gli saranno capitati anche dei casi. Prego, Animali. Sì, noi abbiamo avuto diverse segnalazioni di questo tipo, naturalmente siamo in contatto anche con il territorio, siamo in contatto con le associazioni che si occupano di advocacy, quindi di tutela di queste situazioni, e ci è stato sottoposto questo problema ripetutamente, tanto che nel 2007 ho fatto precisamente il 23 gennaio del 2007 ho fatto un parere. Il parere è il modo con cui ci esprimiamo noi, certo, difensori civici. Certo. Ho fatto un parere in cui ho cercato di fare un po' il punto sulla situazione. Effettivamente il problema è l'interpretazione di una norma, che è il decreto legislativo 109 del 98 modificato dal decreto legislativo 130 del 2000. Questo decreto legislativo dice che limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati, che è praticamente quello che stavate dicendo voi, sì, queste prestazioni limitatamente a ciò che riguarda i soggetti ultra 65enni non autosufficienti e persone con handicap permanente grave, praticamente va considerato solamente il reddito personale e non va considerato il reddito dei familiari. Ecco, ma io le chiedo questo, Animali. La Regione Marche, i comuni marchigiani, come si comportano? Allora, la situazione è, come spesso accade, un po' a macchia di leopardo. Noi stiamo facendo pressione sui comuni attraverso comunicazioni sugli ambiti sociosanitari, in realtà, perché come le sa i comuni sono organizzati all'interno di ambiti sociosanitari, sì, in sede regionale. E stiamo facendo pressioni perché ci sia un'applicazione uniforme. Questa applicazione uniforme non è, perché i comuni contestano la applicabilità di questa normativa per una serie di motivi, il più importante dei quali è che mancano i decreti attuativi di questa normativa. E quindi, mancando i decreti attuativi di questa normativa, in buona sostanza i comuni si sentono autorizzati a comportarsi come meglio credono, o sbaglio? Alcuni comuni, mentre altri accettano la interpretazione che diamo noi, ma non soltanto noi, tutta una serie di associazioni, ma non soltanto noi le associazioni, ma anche tutta una serie di sentenze, potrei citargliene almeno una dozzina solamente, certo, facendo riferimento, certo, al 2007, che hanno chiarito come una cosa sono i decreti attuativi, che sono necessari per alcune disposizioni, le quali senza decreti attuativi non sono applicabili, una cosa è il diritto che viene sancito all'interno di questo decreto legislativo 130 del 2000 e che non ha bisogno di decreti attuativi. Ecco, io le vorrei chiedere questo qui, Animali, prima di congedarla dalla trasmissione, ringraziandola ovviamente per il suo contributo, ma Una domanda maliziosa, ma secondo me non è che poi vado molto lontano dal vero. Ma allora i comuni hanno tutto l'interesse a mettere dentro le strutture persone che abbiano capacità di pagare, di integrare la retta. Ma chi glielo fa fare a mettere dentro una persona che magari è bisognosissima, scusate questo neologismo, questo superlativo assoluto, ma che non ha i soldi per pagare? Ma chi glielo fa fare? No, in realtà non è che decidono loro chi mettere dentro, il problema probabilmente è un altro. Chi decide? Hanno tutto l'interesse a non predisporre le strutture. Ma chi decide, scusi? Ci sarà una graduatoria, no? Sì, ma è un problema di carattere sanitario, cioè ci sono delle valutazioni che sono di carattere sanitario, non assistenziale, per cui le persone che hanno bisogno di questo tipo di ricovero non vengono decise dai comuni, tant'è vero che il 50%, si tratta di prestazioni sociosanitarie, quindi il 50% è pagato dalle ASL. Quindi lo decidono le ASL? Sanitario. Il problema qual è? È che il problema c'è in realtà, che c'è tutto l'interesse a non fare tanti posti di questo tipo. E lasciare magari che siano invece i privati ad interessarsi del servizio. Attraverso badanti, ovvero cioè, strutture meglio, anche. Il singolo privato che si munisce della badante, ovvero il singolo privato che trova delle strutture private per poter ricoverare il suo anziano o il suo disabile, salvo il fatto che comunque questo privato costretto a ricoverare strutture non convenzionate, perché in realtà le strutture sono tutte private, la maggior parte sono private, sono convenzionate. Certo. Strutture non convenzionate, però con l'aspettativa prima o poi di riuscire a rientrare all'interno delle strutture convenzionate. Benissimo. Io la ringrazio Animali per il suo intervento, così come ringrazio Mannini dell'ADUC, dico ai miei radioascoltatori, e ovviamente non possiamo finirla qui, domani torniamo su questo argomento e nel frattempo grazie a Regia Pio della Corte, in studio Laura Faggin e da Roberto Galullo una buona giornata e a risentirci domani.